faccia, anche sapendo che sbaglia. C'è chi non ha mostrato mai l'altra faccia della medaglia, come chi non ha le palle lo si sgama e risaputo. Dietro alle spalle ti infama, ma faccia a faccia sta muto. Vorrei capire piuttosto con che faccia ti sei presentato. Non mi dire che è scontato che c'è più facce di un dado. Meglio che ti svegli, meglio che ti impegni. Lo vedo che ti ingegni, frate, non sei Jim Kelly. Cambia facciata, tanto ognuna può starti a capirla. Ma su sta strada ad ogni duna c'è una faccia da birla. Regola non scritta e puntualmente si conferma. Chi ha la faccia da culo ha sempre un alito di merda. C'è chi se la salva sempre, chiedo a un top che la persa. Aspetta che indietreggi, poi la cambia mentre tergiversa. Vuoi sapere il trucco? Te lo insegno, questa qui è la mia. Se ti piace bene, se non ti piace meglio. Dimmi quale indossi tu, quella che non porti più. Face to face with you, face to face with you. Dimmi quale indossi tu, quella che non usi più. Face to face with you, face to face with you. Pensavo di conoscerti, ma ora hai cambiato sguardo. Era solo una maschera, l'ho capito in ritardo. Io non ci sono mai riuscito, so che vuol dire essere tradito, sia da una donna che da un amico, e non lo auguro nemmeno al mio nemico. Mai più, da oggi so come riconoscere. Mai più, ora ridisegno le strade da percorrere. Ho perso il conto di quante ne hai, di quante me ne hai fatte senza accorgermene mai. Ho cancellato il tuo nome quando ho capito che quella vera era la peggiore. Dimmi quale indossi tu, quella che non.